Tutto ciò che era consacrato dipendeva da Selomit e dai suoi fratelli. Tra i discendenti di Isear c'erano Chenania e i suoi figli, cui erano affidati gli affari esterni in Israele, in qualità di magistrati e giudici. Fra i discendenti di Ebron c'erano Casabia e i suoi fratelli, uomini di valore, in numero di 1700, preposti alla sorveglianza di Israele dalla Transgiordania all'Occidente, riguardo ad ogni cosa che concernesse il culto del Signore ed il servizio del Re. Ancora fra i discendenti di Ebron c'era Ieria, capo degli Ebroniti, divisi secondo le loro genealogie e casati. Nel 40° anno del regno di Davide furono fatte ricerche e si trovarono fra loro uomini valorosi in Iazer Galaad. Tra i fratelli di Ieria, uomini di valore, c'erano 2700 capi di casati. Il re Davide li pose a capo dei Rubeniti, dei Gaditi e della mezza tribù di Manasse, per tutte le questioni che riguardassero Dio o il re.